Dovete un po' pazientare. Se vi dà fastidio il volume del metronomo è questo qua sotto, si può abbassare o alzare. Ok, ecco, in questo momento sto sentendo gli altri. Se adesso voglio suonare con questi, a parte qui ci sta la chat, quello che scrivo. BPM a 100 e io infatti ci sono, si sente da paura ragazzi, cioè potete capire. Io vi faccio sentire un attimo. Cioè, ma questi stanno cazzeggiando. Allora, uno non trasmette fino a che non preme. Quando premi transmit, praticamente cominci il tuo microfono a funzionare. Poi ci sono una marea di impostazioni, tipo qua ci sono degli effetti che puoi aggiungere. C'è anche la possibilità di collegare la videocamera, perché ieri ho visto delle persone che erano collegate in video.